Capitolo 10. Suzanne. Luglio 1949. Era mercoledì, il mio giorno di libera uscita, e gironzolavo per Gloucester Arcade, la galleria di negozi che unisce l'albergo Gloucester con l'albergo Hong Kong. Davanti alla pasticceria, una donna dai capelli gialli, con un vestito rosso a bolli bianchi, si volse a guardarmi. Sebbene vista da dietro avesse un aspetto completamente europeo, c'era qualcosa di cinese nel suo viso sotto il trucco occidentale. Mi venne incontro. Scusatemi, non siete Su Yen? La guardai e da sotto la cipria e i lineamenti sconosciuti affiorò lentamente un altro viso a me familiare, un viso conosciuto molto tempo prima. Sì, ti conosco. Siamo state insieme al collegio cattolico. Sei Suzanne? Ella parve felice che l'avessi riconosciuta e i suoi occhi nerissimi, in netto contrasto con i capelli biondi, scintillarono. Ti sei tinta i capelli? Sì, così mi hai veramente riconosciuta dopo quasi 20 anni. Siamo state 2 anni a scuola insieme. Impulsiva, mi strinse entrambe le mani. Ci guardammo un attimo in silenzio e infine ci avviammo verso l'atrio dell'albergo Hong Kong dove, con un po' di pazienza, ci fu possibile trovare un tavolino libero. Come sempre l'atrio era affollato di cinesi esuberanti, a gruppi e intere famiglie, mai soli, donne con orecchini vestite all'ultima moda e uomini d'affari vociferanti mangiavano paste e bevevano aranciata. Non si vedevano inglesi, scacciati dalla razza più espansiva e numerosa, si erano ritirati con tranquilla dignità al piano superiore, abbandonando l'atrio con un'indifferenza magistrale che mutava la loro ritirata in vittoria tattica. Che ti è accaduto in questi 20 anni? Mi chiese Suzanne. Ho frequentato un'università cinese, ho girato l'Europa, sono ritornata in Cina, mi sono sposata e sono rimasta a Chongqing durante la guerra. Poi mio marito è stato ucciso durante la guerra civile, io ho terminato gli studi di medicina in Inghilterra. Ho una bambina. Così descritta la mia vita veniva frammentata in tante vite aventi ognuna un'identità propria. Ma io non ho nulla di interessante da raccontarti, dimmi piuttosto di te. Ero ansiosa di sentire la storia di un'euroasiana come me, mia compagna in quella costosa scuola cattolica dove, per compiacere mia madre, avevo passato 2 anni della mia vita a studiare il francese e le inutili belle maniere, e dove avevo imparato a odiare gli europei. Era un mondo che era stato mio da giovanissima, ma che avevo completamente abbandonato. Suzanne, invece, vi era ancora legata, e quegli anni rappresentavano per lei un piacevole ricordo. A causa di quei tempi vissuti insieme, le nostre vite si erano ora incontrate e forse si sarebbero influenzate reciprocamente. Dimmi, ripetei, abbiamo fatto insieme la prima comunione. Faceva freddo quel giorno, ricordo, e qualcuno svenne. Sì, fu Bettina, quella che aveva la madre giapponese e il padre inglese e mangiava la carta asciugante nascondendosi dietro al banco. Madre Angela, quella grassa che morì di un colpo, ricordi? La scuoteva forte per fargliela sputare. Bettina svenne all'elevazione, scivolò e batté la testa sul pavimento. Le diedero acqua e aceto per farla rinvenire, ma non poté ugualmente fare la comunione fino alla domenica seguente. Sposò un tedesco e morì di parto. Suzanne era troppo incostante per sposarsi. Mentre mi narrava delle numerose persone a cui aveva dato in prestito il suo cuore, rideva spensierata, gesticolando volubilmente. La mia vita è tutto un susseguirsi di avventure d'amore, concluse trillando un'altra risata. Ero piena di invidia. L'amore sembrava una cosa senza importanza sulla sua bocca ridente, un piacevole passatempo. Perché non era così anche per me? Perché ero tanto diversa? Dimmi. Le chiesi, quanti? Suzanne portò le mani agli occhi in un gesto di finto orrore. Tra le palme socchiuse, la sua bocca rideva. Proprio l'altra sera ho cercato di contarli, rispose, gorgogliando un'altra risata. Credo di essere arrivata a una decina. Ti sembrano molti? Non saprei, mormorai a fatica. Mi sentivo la gola chiusa. Il viso mobile di Suzanne si fece serio. Però non ho mai perso messa, sai? Dico ancora le mie preghiere ogni sera come ci hanno insegnato a scuola. La fissavo. Sì, simile a un coniglio in trance di fronte a un serpente. Suzanne era di nazionalità inglese, poiché suo padre era inglese, ma per educazione e per sentimento era soprattutto francese. Gli inglesi sono troppo sentimentali, disse. Eppure non hanno immaginazione in amore. Lo prendono troppo sul serio, o ti adorano con passione, oppure non ti considerano nemmeno, e per di più te lo fanno capire. Suzanne preferiva i francesi, quelli tranquillamente sposati in cerca di un episodio sentimentale in una vita soddisfacente, appunto perché priva di sentimento. Tanti uomini diventano sentimentali dopo che si sono sposati, concluse. Hai mai avuto un cinese? No, rispose prontamente Suzanne, non mi dicono nulla. Ancora una volta dovetti stupirmi della differenza che esisteva fra noi entrambe euroasiane. Io, ad esempio, non mi sarei mai sognata di lasciarmi toccare da uno straniero prima che Mark entrasse nella mia vita. Ma Suzanne mi stava aprendo nuovi orizzonti. Una volta fui sul punto di sposarmi, diceva. Era un inglese conosciuto in piroscafo. Sai bene che le cose precipitano quando si è a bordo. In soli 3 giorni eravamo innamorati matti. Lui voleva divorziare dalla moglie per sposarmi, ma è una cosa che non potrei mai permettere, perché ci tengo a essere sposata come si deve, in chiesa. E intanto voleva che andassi a vivere con lui. Già, ma la mia reputazione? Susanna era ormai avviata e sarebbe stato difficile fermarla. Ho visto naufragare tanti matrimoni proprio per questo. Non vanno tanto d'accordo con la moglie e si guardano intorno in cerca di qualcosa di meglio. Per questo è necessario assicurarsi prima di come sono realmente, e c'è un solo modo per scoprirlo. Ma vedo che tu non sei pratica di queste cose. Suppongo tu sia stata sposata per molto tempo. Sei mai stata innamorata? Sentii come un guscio riserrarsi intorno al mio corpo. Certo, mormorai impacciata. Di mio marito, naturalmente. Ah, vedo che hai avuto una vita tranquilla. Però deve essere piuttosto noioso. È incredibile quello che riescono a escogitare gli uomini, e perciò bisogna conoscerli bene prima di legarsi. Quando si fa l'amore con un uomo, sì, allora lo si conosce a fondo. Un uomo può parlarti di sé per mesi, portarti a spasso un giorno dopo l'altro, ma tutto questo non serve a nulla, è soltanto dopo che lo conosci davvero. Ci sono stati uomini che mi piacevano alla follia fino al momento cruciale, poi tutto finito. Caro mio, ho detto loro, se è così che sei, preferisco lasciare a un'altra la gioia di provare. Una morsa d'acciaio mi serrava la gola. Ma non è peccato? Balbettai con voce roca e subito mi stupì della mia domanda. Suzanne parve momentaneamente rattristata, poi le sfuggì un sospiro di comico rimpianto mentre lacrime di allegria già le brillavano negli occhi. Certo, ammise, ma io sono fatta così. Nei primi giorni, quando sto sospesa fra cielo e terra in un'estasi d'amore, non mi sento colpevole. Ma poi crollo di colpo e mi rendo conto di aver peccato, specialmente la domenica mattina. Tuttavia, il suo viso ovale era senza una sola ruga e splendeva di felicità. Ma dimmi di te, riprese, tu non sei più cattolica, vero? Hai abbandonato la religione dopo aver dato un calcio in uno stinco alla madre superiora. Ma tua madre era molto religiosa. Eh sì, annuì, ma non le dissi perché me n'ero andata dalla scuola. La madre superiore non c'entrava per nulla. Avevo preso quella decisione perché volevo essere interamente cinese e non la contraffazione di un'europea, una di quelle persone allegre e generose che vivono all'orlo dei piccoli circoli europei di Shanghai e di Pechino, in quello strano mondo di condiscendenze e di tabù razziali, quel mondo che ora era morto, insieme alle missioni, alla superiorità dei bianchi e a molte altre cose. Ho lasciato il cattolicesimo per molte ragioni che ora non esistono più. Oggi sono soltanto me stessa e non sento il bisogno di una religione. Forse sei nata puritana. Non sei mai riuscita ad accettare le cose quali sono, vero? Tutto riesce più difficile a coloro che hanno l'anima puritana, perché sono inumani. Ho conosciuto un uomo che si rendeva la vita un inferno. La religione è fatta per gli esseri umani che sono imperfetti e devono accettarla senza paura. Credo che tornerai alla fede. Quando ti innamorerai di nuovo, tornerai alla chiesa. Oh, mai, dissi. Mai. La mia anima non è cristiana. Sono troppo fredda e curiosa per poter adorare un qualsiasi essere superiore. Non tornerò al cattolicesimo e non mi innamorerò mai più. Mai più. Parli di amore come se si trattasse di una cosa quasi sovrumana, osservò Susanna. Non è affatto una cosa grande come credi. Basta pochissimo per fartelo passare. Si può andare a letto pieni d'amore e constatare al risveglio che è tutto scomparso. Rammento un uomo di cui ero innamorata. Avevamo fissato un appuntamento al suo albergo e quando entrai in camera sua lo trovai già svestito in maglietta. Una grave mancanza di tatto, non ti pare? Ad essere sincera, dimostri di avere un po' troppa fretta, gli dissi. Avresti dovuto aspettare un po'. E per me fu finita. Avevamo ormai terminato di bere le nostre aranciate. Dove lavori? Le chiesi. Sono la segretaria di Humphrey Palmer Jones, mi rispose. La notizia mi fece piacere. Ho sentito parlare tanto di lui, dissi, e penso che presto farò la sua conoscenza. Ho una lettera di presentazione per lui di amici inglesi. È simpatico, disse Suzanne, ma bada alla moglie, soggiunse con una smorfia, è piuttosto terrificante. Suzanne non aveva molta simpatia per Mrs. Palmer Jones, ma era entusiasta di Humphrey. Ti aiuterà a farti strada perché ha molta influenza ed è veramente molto gentile. Ci alzammo, dopo esserci scambiate i rispettivi numeri telefonici. Leggera, lievemente traballante sugli altissimi tacchi, radiosa di giovinezza, Suzanne scomparve in fondo all'arcade. E mentre la seguivo con lo sguardo, mi sentivo avvizzita, inutile, avara di me stessa. Di ritorno all'ospedale mi sdraiai sul letto. Con ogni battito del mio cuore un nome mi martellava in petto. Infine, mi spogliai completamente e rimasi a lungo a scrutarmi davanti allo specchio. Fu un'ora molto infelice. Capitolo 11. Caccia al tesoro. Luglio 1949. Finalmente avrei fatto la conoscenza dei Palmer Jones. Cocktail e cena, diceva il biglietto d'invito che avevo ricevuto. 5 minuti prima che lasciassi l'ospedale squillò il telefono. Era Mark, di ritorno da Formosa. «Sto per andare a un ricevimento!» gli urlai al microfono cercando di farmi udire sopra al frastuono della sala. «Vieni alle 11!» E, turbata dal pensiero del ritorno di Mark, andai dai Palmer Jones. Avevo sentito molto parlare di loro. Susanna era la segretaria di Humphrey, Robert e Nora li frequentavano e Robert aveva avuto rapporti di affari con Mr. Palmer Jones. La sua abilità di finanziere era nota e apprezzata e l'opinione pubblica lo giudicava simpatico. Adeline Palmer Jones mi venne incontro con maestosa benevolenza, allorché feci la mia comparsa nel salotto affollato. Come sciocca la gente, mi dissi, mentre ella mi pilotava tra la folla. Non è affatto terrorizzante. Certo è regale e anche un po' untuosa, ma ciò può dipendere dalla sua grassezza. Tiene il naso piuttosto alto e ha gli occhi piccoli e le labbra sottili, ma che colpa ne ha lei? Mi trovai bloccata fra due signore inglesi e la parete da cui pendeva un ritratto olio di Adeline in cappello blu. Un ometto tarchiato comparve improvvisamente al mio fianco e mi confidò tristemente che i cocktail erano piuttosto deboli. Le due inglesi si scambiavano acide osservazioni al di sopra della mia testa. È una vera serpe, diceva la più ossuta e lentigginosa. Proprio così, rispondeva la bionda dal labbro superiore coperto di peluria. E continuarono a scambiarsi una battuta dopo l'altra, mentre io allungavo il collo a destra e a sinistra, cercando invano di farmi notare da loro. Infine, la padrona di casa si diresse verso di noi e la signora lentiginosa la salutò entusiasticamente. Stavo appunto dicendo a Mary che i vostri ricevimenti sono davvero meravigliosi. Adeline, cara, vi trovo tutte le persone che conosco. Adeline mi sorrise. Mi pare di conoscervi da molto tempo, dottoressa Han. Lady Brambles mi ha scritto tutto di voi. È davvero una grande artista, non trovate? Ha una tale comprensione per le genti dell'Oriente e per la loro cultura, una civiltà vecchia di 5.000 anni. E mi guardò con la benevolenza dovuta a una rappresentante di quei 5.000 anni. Poi la nostra conversazione passò ai tempi presenti e le sue frasi si riempirono di nomi di persone importanti, nessuna delle quali conoscevo. Evidentemente Lady Brambles aveva esagerato sul mio conto, cosicché fui costretta a pronunciare alcuni nomi di personalità del governo nazionalista per far ritornare il sorriso sul suo viso. Humphrey ed io conosciamo il fiorfiore della Cina. Avevamo molti amici che ci regalavano cose meravigliose: ricami, tappeti, vasi, quadri. Quei cari generali non facevano che inviarmi doni. Sapete, Humphrey deve trattare con moltissima gente. Noi siamo veramente entusiasti dei cinesi. È terribile pensare che tutto ciò è finito per sempre, concluse con un sospiro. Sono contenta che vi piaccia Hong Kong, continuò poi. Quando si ha una macchina è un posto delizioso. Guidate voi o avete un autista? Non posseggo macchina, non posso permettermelo. Un'ombra oscurò il radioso sorriso che mi era stato dedicato. Le spiegai che i tempi erano cambiati per me e che ora dovevo guadagnarmi da vivere. L'ombra si oscurò maggiormente. Beh, tutti abbiamo i nostri alti e bassi, naturalmente, e vi stabilirete qui. Il medico indipendente è di grande servizio alla comunità. Veramente ho intenzione di ritornare in Cina. Il sorriso era ormai definitivamente scomparso. Ma tutti i ben pensanti lasciano la Cina, obiettò freddamente. Voi giovani vi lasciate facilmente trasportare dagli ideali. Siete forse favorevoli ai rossi? No, non mi interesso di politica, ma la Cina è il mio paese e ha bisogno di medici. Naturalmente, mi interruppe Adeline seguendo il proprio pensiero, mio marito è costretto a trattare con loro. È una grande responsabilità, ma il commercio deve continuare a qualsiasi costo. Tuttavia non posso fare a meno di pensare che 25 anni fa avremmo saputo far fronte con maggiore energia a questo stato di cose. Poche cannoniere mandate sui loro fiumi avrebbero rimesso tutto a posto. Sempre e dovunque noi abbiamo protetto il commercio. Uno spiacevole senso di calore stava arrossandomi il collo, come capita spesso a noi cinesi quando sentiamo gli europei parlare volubilmente di cannoniere sui fiumi della Cina. Ma Adeline stessa mi impedì di risponderle a tono, lasciandomi con sorprendente rapidità. Un bell'uomo alto, dai capelli brizzolati, era entrato nella stanza, venendo subito circondato da una moltitudine di donne che sembravano ascoltarlo rapite. Di tanto in tanto allegre risatine si levavano dal gruppo. Quello è Humphrey, mi disse James Manton, comparso all'improvviso accanto a me. Come state? È tanto tempo che non vi fate vedere. Fiona sarà presto di ritorno e dovete venire ad abitare un poco con noi prima di andarvene a Pechino. Tatty Boogle ha mandato a Fiona un telegramma per il suo compleanno e il suo cane, sapete, non il mio. Evelyn Walsingham era immersa in conversazione con un gesuita alto e bello che reggeva fra le mani un bicchiere di aranciata. James ed io ci unimmo a loro. Padre Low parlava alla perfezione 8 lingue europee e 2 dialetti cinesi. Quanta gente, vero? Osservò amabilmente. Non so davvero perché sia stato invitato, forse in rappresentanza del potere temporale della Chiesa. Mrs. Palmer Jones è una vera personalità, disse Evelyn, così energica, caritatevole e gentile. Verniciata di gentilezza come un pollo in gelatina, brontolò l'ometto tarchiato che era diventato la mia ombra. Nessuno sembrava conoscerlo. Comunque, non è ammesso dire queste cose dopo 2 cocktail tanto annacquati, soggiunse tristemente. Padre Lo ed io scoprimmo un interesse comune nelle poesie di Nah Lan e stavamo appunto citando alcune strofe quando Humphrey ci raggiunse. Era delizioso. Quando si chinò a stringermi la mano, mi sentii minuscola e bellissima. Abbiamo sentito tanto parlare di voi, mi disse, infondendomi una straordinaria sicurezza nella mia intelligenza e nelle mie capacità. Poi si volse verso James. Mi dispiace di essere in ritardo, ma sono stato trattenuto a quella seduta per le licenze dei venditori ambulanti. Mi sono opposto risolutamente. Non possiamo permettere che ci affollino le strade. Non sarebbe dignitoso. Quando quando se ne fu andato, James mi spiegò come Humphrey si interessasse anche dell'industria del pesce. Faceva parte di qualche comitato e aveva idee ben definite in proposito. Dato che la colonia importa per intero il suo fabbisogno di carne, il pesce e il riso costituiscono pressoché i soli cibi degli indigeni. Prima della guerra, i pescatori, circa 60.000, cedevano il frutto del loro lavoro a ricchi strozzini che prestavano loro denaro ad alto interesse e dei quali rimanevano debitori di generazione in generazione. Il governo della colonia aveva ora distrutto la potenza degli strozzini, instaurando mercati dove i pescatori vendevano la loro merce a prezzi equi, concedendo prestiti a basso interesse e istituendo cooperative e servizi di assistenza sociale. Ma si era formata una categoria di mediatori, i quali accaparravano la merce e la rivendevano a prezzo quadruplicato. La colonia non disponeva di impianti frigoriferi per il pesce e veniva così a prodursi una preoccupante scarsità di questo prezioso alimento. I consumatori ne soffrivano e i poveri non potevano più permettersi di comprare pesce fresco. Un giorno dopo l'altro mangiavano riso, poche verdure e filetti salati di sardine. Per risolvere la situazione si sarebbero dovute aumentare le licenze di vendita, concedendole anche ai venditori ambulanti anziché limitarle a coloro che disponevano di una bancarella di vendita e che erano in combutta con i mediatori. Gli strozzini di un tempo avevano finanziato i mediatori e riprendevano a prosperare. Manfred dice che, mutando l'attuale stato di cose, non se ne caverebbe nulla di buono. È un uomo leale, ha rapporti d'affari con i mediatori, quindi li difende. Ma ciò significa che molti poveretti non hanno altro che riso da mangiare, protestai con magniloquenza, e la cattiva alimentazione porta malattie. Beh, certo, è un problema difficile, ammise James, ragionevole come sempre. Il governo ha fatto molto per i pescatori, ma gli interessi in gioco sono tanti e bisogna andar cauti. Evelyn Walsingham non aveva peli sulla lingua sull'argomento degli studenti cinesi. Il suo cuore è rimasto nella piccola casetta nel Kent, dove la sua mente ordinata si muove con piacere e dignità. Non trovo nulla da ammirare nella filosofia cinese e giudico piuttosto crudele la vostra concezione della vita. I vostri studenti non sembrano molto grati per quello che abbiamo fatto per loro. Basta leggere sui giornali comunisti le denunce e le confessioni di giovani che tuttavia hanno fruito di borse di studio americane e inglesi. E molti dei cinesi che si sono rifugiati a Hong Kong si rifiutano di cooperare all'assistenza sociale della colonia e non si interessano al suo benessere, sebbene siano ben lieti di poter godere della sicurezza che essa offre. Hanno rovinato la colonia, disse un signore calvo dall'aria marziale con un paio di baffi a spazzola. I ricchi cinesi ci hanno rovinato. Questo è il grande cocktail annuale di Mrs. Palmer Jones, mi sussurrò James. Venite a mangiare un boccone con noi, oppure siete fra gli eletti che rimangono a cena. Confessai la mia situazione privilegiata e il pensiero della cena mi fece istintivamente guardare l'orologio. Il cuculo svizzero sul muro di fronte al ritratto di Mrs. Palmer Jones segnava le 10. Le 10! Fra un'ora Mark sarebbe stato ad attendermi davanti all'ospedale. Avrei fatto tardi e forse lui se ne sarebbe andato e non ci saremmo visti mai più. Qualcuno mi toccò il braccio. Era Helen Parrish col marito Alf. Cattivona, non siete più venuta a trovarci da quando siete all'ospedale. Non ho mai avuto tempo, Mrs. Parrish. Come vanno le cose? Piuttosto bene. Siamo stati fortunati. Alf è ora vice direttore addetto alle vendite della ditta Palmer Jones. Abbassò la voce. Humphrey e Adeline sono due tesori. Erano missionari come noi tanto tempo fa, ma ne hanno fatta della strada. Siamo loro molto grati. Mrs. Parrish sembrava felice di partecipare a un ricevimento tanto grandioso. La nostra missione ha mandato nuovi missionari dall'America destinati alla Cina. Hanno chiesto il visto di entrata e sono all'ostello in attesa di ottenerlo. Buffo, vero? Ora non riusciranno certo a entrare. L'uomo, deciso, che mi aveva parlato con tanta indignazione di Ernest Watts, si avvicinò al nostro gruppo. Mi ripeté il suo nome, William Monk. Strano che lo abbiate dimenticato, osservò scherzosamente, rivolgendomi un affascinante sorriso. Una signora magra e ossuta mi lanciò un'occhiata diffidente, recuperò William Monk con poche parole secche e scomparve con lui tra la folla. Caro Mr. Monk, sospirò Evelyn, è simpatico malgrado la sua rudezza, vero? Marta invece è un po' ossessionante, crede che ogni donna voglia rubarle il marito, gli fa venire l'ulcera gastrica quando diventa particolarmente difficile. Una biondina, accanto alla quale mi trovai per caso, mi disse che suo marito faceva parte dell'azienda. Tutto il suo gruppo apparteneva all'azienda. Non mi capita spesso di conoscere altra gente, sono felice di avervi incontrata, mi disse gentilmente. Vedete, a Hong Kong ognuno sta col proprio gruppo e non fa molte conoscenze. Sono qui solo da 3 anni e non conosco una sola parola di cinese. Voi siete la prima ragazza cinese con cui abbia parlato. Siamo tanto occupati a dare ricevimenti nel nostro circolo che non abbiamo tempo di fare altro. Penso che Adeline sia veramente coraggiosa a sobbarcarsi un ricevimento di questo genere, osservò una voce alle mie spalle. Io ne sarei terrorizzata. Non si sa mai a quali terribili faux pas si possa andare incontro. Io ho pochissime occasioni di frequentare i cinesi. Adeline era veramente coraggiosa e la mia simpatia per lei aumentò. Nei 6 mesi che avevo vissuto a Hong Kong, passando da un gruppo all'altro, da una razza all'altra, mi ero spesso chiesta perché i diversi ambienti non si mescolassero maggiormente. Il punto di fusione dell'Oriente, chiamavano Hong Kong, ma non era affatto vero. La gente si incontra per poi appartarsi nuovamente, divisa da barriere di pregiudizi e di dicerie. Per quanto si cercasse di amalgamare il miscuglio, esso si divideva sempre in strati inscindibili. D'un tratto ebbe inizio uno sfollamento generale che evidentemente segnava la fine del cocktail party. Simile a un esercito disciplinato, i non eletti sfilavano rapidamente fuori. Seguii tristemente con lo sguardo le schiere in ritirata, desiderando di essere con loro. Poi mi guardai intorno. Nella sala dove erano rimasti soltanto pochi eletti. Il suo arredamento mi avrebbe forse dato modo di comprendere meglio Adeline Palmer Jones. Sugli scaffali laccati, carrettini d'argento mancesi e scodelle tibetane incrostate di turchesi facevano compagnia a pastorelle di Dresda. Grandi bambole giapponesi erano fiancheggiate da vasi Ming e ai due lati dell'orologio a cucù stavano appesi due splendidi dipinti cinesi rappresentanti pruneti in fiore. Una riproduzione litografica dei girasoli di Van Gogh faceva da pendant al ritratto di Adeline. Le spalliere delle sedie erano riccamente scolpite a motivi di grappoli d'uva. Due tavole d'altare cinesi in legno di rosa apparivano sommerse da cataste di libri e riviste, e i numerosi comodi divani erano ricoperti di stoffa a brillanti disegni. Sui folti tappeti di Tianjin, a meravigliosi colori, erano sparsi numerosi tavolini. Potevo ora vedere Adeline in tutto il suo splendore e fui colpita dal numero di zecchini d'argento disseminati sul suo vestito di un azzurro pallido. Erano le 11 quando ci sedemmo alla tavola scintillante d'argento e di preziose porcellane, e servita da rispettosissimi camerieri silenziosi in lunghe vesti bianche. Fra una cucchiaiata e l'altra di zuppa al pomodoro, una donna magrissima, dai riccioli sfatti, blaterava entusiastiche parole su Hong Kong. Era la sua prima visita in Oriente. È davvero meraviglioso poter disporre di tanta servitù e godere di tante comodità, diceva. Non dovendo occuparsi delle faccende domestiche, come in Inghilterra, è possibile dedicarsi a un'attività veramente creativa. Ma non ne abbiamo il tempo, obiettò la signora lentiginosa rimasta con gli eletti. C'è tanto da fare nel nostro ambiente che a volte mi sento completamente esausta. La settimana scorsa ho dovuto restare a letto un giorno intero.